battente di tamburi e grida di giubilo. Sull'argine della Sieve soffia il vento, ma in piazza oggi non c'è posto per il lamento. Le vie del borgo sono tutte illuminate per le giornate più attese e sognate. I maestri della carta hanno alzato la testa, tutto è pronto per la grande festa. Coriandoli in aria come pioggia colorata, di Comano si sveglia, è una grande giornata. Alza le mani, senti il richiamo, è il carnevale di Comano. Tra i carri di storia costruiti con sogni, fatica e memoria, carta, pesta e colori che sfidano il cielo, mentre la musica rompe ogni gelo, dalla piazza vecchia fino al ponte sul fiume.